GR24, il sole 24 ore. Berlusconi indagato per il caso Ruby, rapporti quando era minorenne, i suoi difensori, indagine assurda. Referendum Fiat, Sacconi, se vince il no, una situazione irreversibile, alta l'affluenza, Mirafiori. Papa Wojtyla sarà beato, la cerimonia fissata il 1 maggio. E caos in Tunisia, una marcia nelle vie della capitale contro il caro pane, si temono altri incidenti. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Il giorno dopo la decisione della Consulta sul legittimo impedimento dalla Procura di Milano, l'avete sentito, è arrivata la notizia di nuove accuse per Silvio Berlusconi. Una notizia arrivata quando il caso Ruby sembrava dimenticato, il premier invece accusato di concussione e prostituzione minorile. Cominciamo allora da qui col capire cosa emergerebbe secondo i magistrati milanesi. Raffaella Calandra. Ci sono i racconti dei poliziotti, le relazioni ufficio, le trascrizioni delle telefonate, i verbali dei testimoni e poi le foto delle feste a Villa Arcore. Eccole le dettagliate fonti di prova, per dirla con la nota della procura, che hanno portato alle accuse per Silvio Berlusconi nel caso Ruby, accuse di prostituzione minorile e concussione, accuse già formalizzate in un invito a comparire notificato oggi al premier e ai suoi difensori, che così commentano: è un'indagine assurda che non potrà che concludersi con una doverosa archiviazione. Porta la data del 21 dicembre invece l'iscrizione nel registro degli indagati di Berlusconi a conclusione di un paio di mesi di complesse attività investigative che hanno scandagliato innanzitutto i passaggi di quella notte tra il 27 e il 28 maggio, la notte in cui Karima Al-Marug, l'allora minorenne Ruby, fu fermata per un furto e portata in questura a Milano. Palazzo Chigi intervenne direttamente con la voce al telefono dello stesso Berlusconi, che ai funzionari presentava la ragazza marocchina come la nipote del presidente egiziano Mubarak, e questo secondo i magistrati per ottenere l'affido di Ruby, allora 17enne, alla consigliera regionale Nicole Minetti, anche lei indagata, di cui sono stati perquisiti oggi casa e ufficio. E così finì, anche se il PM minorile Anna Maria Fiorillo ripete di non aver mai accordato quell'affido, al contrario di quanto lo stesso ministro dell'interno abbia sostenuto in Parlamento. Era evidente che qualcosa non andava, ripete ancora oggi, e quel qualcosa secondo i magistrati furono le pressioni del premier per coprire altri reati, vale a dire di essere stato cliente di una prostituta minorenne, ossia Ruby. Per i magistrati, da febbraio a maggio Berlusconi ha avuto rapporti sessuali con Ruby, al contrario di quanto raccontato dagli stessi interessati. E per ora è tutto. Grazie a Raffaella Calandra. Sentivamo le reazioni dei legali di Berlusconi, che parlano di inchiesta assurda e infondata, ma ci sono già anche reazioni politiche. Allora andiamo a Roma da Andrea Viali. Sì, Anna, Silvio Berlusconi per il momento non ha ancora commentato queste nuove accuse a suo carico. Stamattina il premier ha incontrato i suoi legali Longo e Ghedini, abbiamo sentito poco fa la loro dura nota. Unito nel difendere il Presidente del Consiglio è naturalmente tutto il Popolo delle Libertà, che parla di copione già visto e di fuga di notizie con chiari propositi di destabilizzazione politica, quella partita avvenuta nella Procura di Milano. Di tutt'altro tenore invece sono i commenti che arrivano dall'opposizione. A fianco dei suoi ex colleghi milanesi si schiera il leader dell'Italia dei Valori, Di Pietro, ma sentiamo le sue parole. Non è colpa della Procura di Milano accertare come stanno i fatti rispetto a un fatto grave. Un Presidente del Consiglio, nel ruolo e nella funzione che svolge, telefona al questore di Milano per dire che una minorenne è la nipote di Mubarak, quando invece non è vero, e tutto ciò per coprire comportamenti non legittimi da lui commessi in precedente. Allora, ancora una volta, è la Procura di Milano che lo perseguita o lui che perseguita se stesso? E ha sentito poco fa invece il segretario del PD Pierluigi Bersani, Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Il primo commento del leader PD, e non poteva essere altrimenti, è proprio sulla vicenda Ruby. Bersani non è voluto entrare nello specifico del caso, ma ha auspicato che l'ennesimo coinvolgimento giudiziario del premier non avviti il paese in una spirale di immobilismo del governo. Ma sentiamo Bersani. Un premier in fuga dal paese e in fuga da se stesso. Un premier che è in fuga dal paese perché non c'è più governo. Cosa si sta facendo? Cosa si sta facendo questo paese qua? È in fuga da se stesso perché è costretto tutti i giorni ad aggirare responsabilità sue, vere, presunte. Non voglio neanche, non sono io il giudice. Non possiamo permettercelo. Altro capitolo, il referendum Mirafiori, anche qui Bersani è partito dalle parole di Berlusconi, laddove il premier ha parlato di una sinistra ideologica. Berlusconi è l'ultimo che può parlare di mercato sia come imprenditore sia come capo del governo, ha detto il segretario del PD, che ha chiuso tornando sulla direzione di ieri del suo partito. A mio giudizio, ha detto Bersani, non è emersa un'altra linea diversa dalla mia. E da Roma è tutto. E grazie a Vincenzo Miglietta. Io saluto anche Stefano Folli, buongiorno. Buongiorno. Ciao Stefano, resta con noi, perché dobbiamo aggiungere a questo ancora un ultimo tassello, che questa mattina Silvio Berlusconi aveva invece commentato la sentenza di ieri della Corte Costituzionale sul legittimo impedimento. Toni morbidi usati quelli questa mattina però da Berlusconi, il verdetto riconosce la giustezza dell'impedimento di chi governa, aveva detto il premier, aggiungendo però una stoccata ai magistrati di Milano, non sarà così facile per i difensori dei miei processi ottenere un atteggiamento benevolo da parte dei magistrati, sanno tutti, aveva detto Berlusconi questa mattina, che c'è persecuzione politica da parte dei magistrati della sinistra da quando sono sceso in campo. Queste le parole questa mattina di Berlusconi prima della notizia sulla nuova indagine che lo riguarda, e il premier aveva commentato anche l'ipotesi del voto. Sentiamo. Le decisioni di ieri della Consulta sono assolutamente ininfluenti, il governo andrà avanti perché l'Italia ha bisogno di tutto tranne che di elezioni anticipate, elezioni che, voglio ricordarlo, ci esporrebbero alla speculazione finanziaria internazionale. E ripeto, l'Italia ha bisogno soprattutto di stabilità e di continuità nell'azione di governo. Erano le 8:30 di questa mattina, poi è arrivata la notizia dell'indagine a Milano. Stefano Folli, secondo te cambia qualcosa? Questo è difficile dirlo, perché occorrerà valutare la sostanza di questa indagine. Il rischio, dico il rischio perché non conosco ovviamente il merito dell'inchiesta, il rischio è che sia un battage mediatico che già in passato abbiamo sperimentato e che si possa risolvere poi in un rafforzamento, diciamo, dell'immagine di Berlusconi presso l'elettorato, che condivide con lui il giudizio di una supposta persecuzione da parte della magistratura. Questo è il rischio di un boomerang mediatico, c'è stato sempre e continua a esserci. Quegli stessi giudici a cui Berlusconi si era rivolto questa mattina commentando il legittimo impedimento. Sì, ma infatti c'è un po' una connessione, no? C'è la questione dei processi aperti, legittimo impedimento, adesso quest'altra vicenda. Berlusconi stamane ha scelto una chiave di cautela e di nessuna polemica nei confronti della Corte Costituzionale, e invece ha usato il solito registro aspro nei confronti dei magistrati da cui si sente perseguitato, perché vuole utilizzare questa vicenda già in una chiave, diciamo, di opinione pubblica, di eventualmente anche elettorale, se le cose dovessero andare verso le elezioni. Ecco, Stefano, qualcuno stamattina, Repubblica in particolare, già preannunciava queste elezioni vicine. Berlusconi ha scelto toni morbidi, ieri ci si domandava come avrebbe reagito, adesso però dovrà nuovamente pronunciarsi, saranno ancora toni morbidi secondo te? Allora, il fatto che Berlusconi escluda le elezioni non significa di per sé nulla. Berlusconi ha tutto l'interesse politico e di opinione pubblica di presentarsi come quello che vuole la stabilità e non vuole il ricorso alle urne, quindi vuole che siano eventualmente altri a scegliere questa strada e addossarsene la responsabilità. E dire oggi che le elezioni sono già fissate non significa nulla. Quello che io penso è che può essere illusoria la speranza di molti che le vicende giudiziarie prima o poi costringano Berlusconi a gettare la spugna e ad arrendersi. Questo può essere una grossa illusione, perché io sono convinto che Berlusconi può essere un giorno battuto, ma sempre sul piano politico e programmatico, non credo attraverso le scorciatoie giudiziarie. In qualche modo si risposta tutto in un campo dove Berlusconi gioca bene, insomma. Sì, naturalmente tutto questo ha un prezzo, perché questa tensione permanente, questa fibrillazione fa male al paese. Insomma, la stabilità da tanti invocata è fatta di un'azione di governo, e il governo agisce troppo poco secondo me, però è fatta anche, diciamo, di un clima generale che non è quello in cui siamo calati in un clima molto logorato e che a mio avviso si logora sempre di più. Grazie a Stefano Folli. A voi, arrivederci. E nel frattempo queste sono anche le ore del voto a Mirafiori. L'esito del referendum Fiat si conoscerà solo a tarda notte. Noi andiamo a Torino da Paolo Piacenza. Sì, buongiorno. Mentre si avvicina l'ultimo cambio turno, quello delle 14, i primi operai entrano in fabbrica, il voto qui a Mirafiori è ormai a buon punto, alta, molto alta, diremo altissima la percentuale dei votanti. Nel darvi le cifre dobbiamo però sottolineare che in queste ore c'è stata un po' di confusione nelle comunicazioni dei votanti aventi diritto, perché il numero degli operai è mobile, perché alcuni slittano a volte sul turno successivo. Comunque, nel turno di notte ha votato il 97,7%, 384 votanti su 393 presenti. Per il turno del mattino, i dati aggiornati alle ore 12 dicono che su circa 2.500 operai e 500 impiegati presenti avevano votato 2.588 addetti Fiat. Il turno del mattino vota fino alle ore 13, è un orario prolungato, la percentuale alta ovviamente fa ben sperare i sostenitori del sì, perché di solito si ritiene che sia evidente l'interesse ad approvare l'accordo, ma è doveroso in ogni caso essere prudenti. Molti dicono che Mirafiori è uno stabilimento imprevedibile. Questa mattina presenti ovviamente i rappresentanti dei due fronti, sentiamo Federico Bellono, segretario della FIOM di Torino. Se questo referendum fosse autenticamente libero e non così sotto pressione com'è, io non avrei alcun dubbio. Dalle assemblee è apparso evidente che agli operai questo accordo non piace. Vedremo quanto le persone saranno in grado di decidere senza farsi condizionare oltre misura da tutti quelli che in questi giorni hanno preso le parti della Fiat e soprattutto dai proclami dell'amministratore delegato. Prima di salutarvi devo segnalare che sul volantino che è stato trovato questa notte e intestato al Movimento Comunista Rivoluzionario non c'era una stella a 5 punte secondo lo stile delle BR, ma una più comune stella di ispirazione comunista. A volte ci sono queste notizie che rimbalzano con una certa, come dire, leggerezza, e anche un sintomo del clima del momento. Ed è tutto. E grazie a Paolo Piacenza, naturalmente torneremo a Torino nel corso della giornata. Se vincerà il no, la situazione sarà irreversibile, ha detto intanto a Radio 24 al microfono di Maria Piera Ceci il ministro del welfare Maurizio Sacconi. È ragionevole pensare che bruciato il tavolo della maggioranza delle organizzazioni sindacali sia ben difficile aprirne un altro, obiettivamente, ragionevolmente prevedibile un declino irreversibile non solo di Mirafiori, ma a quel punto con ricadute sull'intera produzione automobilistica italiana e relativo indotto. E i dati intanto fotografano un bilancio in rosso nel 2010 per il mercato dell'auto europeo. Nei 27 paesi le nuove immatricolazioni sono scese lo scorso anno del 4,9%. Nel solo mese di dicembre il calo è stato del 2,7%. E altri dati fotografano oggi l'andamento dell'economia. Stime confermate per l'inflazione di dicembre. L'Istat ha comunicato che i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,4% rispetto a novembre e dell'1,9% rispetto all'ultimo mese del 2009. Il dato medio del 2010 si è attestato a più 1,5%, di fatto il doppio dello 0,8% del 2009. Nel mese scorso i rincari maggiori hanno riguardato i due capitoli principali della spesa degli italiani, i prodotti alimentari e i carburanti, che messi insieme hanno fatto segnare una crescita rispetto a dicembre 2009 del 2,2%. Significativi in particolare gli aumenti che hanno colpito la benzina, salita del 9,9% in rapporto a dicembre 2009 e del 2,5% rispetto a novembre, e del gasolio, cresciuto del 14,5% su base annua e del 3% mensile. L'Istat ha diffuso oggi anche i dati sulla bilancia commerciale riferiti a novembre, segnalando un disavanzo di 3,4 miliardi, un valore più che triplo rispetto allo stesso mese del 2009, con le esportazioni aumentate del 20% e le importazioni del 28,3%. Nicola Filippone, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Le notizie di oggi di GR24: Berlusconi indagato per il caso Ruby, rapporti quando era minorenne secondo i magistrati di Milano, i suoi difensori, indagine assurda. Referendum Fiat, alta l'affluenza a Mirafiori, i risultati si sapranno questa notte, il ministro Sacconi, se vince il no una situazione irreversibile. Papa Wojtyla sarà beato, la cerimonia fissata il 1 maggio. È caos in Tunisia, una marcia nelle vie della capitale contro il caro pane, si temono incidenti. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete. L'avrete riconosciuto, era Papa Wojtyla. Questa mattina è arrivato l'annuncio, sarà beato. La data della beatificazione è stata fissata dal Vaticano per domenica 1 maggio. Sarà il Papa in persona a presiedere la cerimonia, una beatificazione arrivata in tempi record. Una beatificazione in tempi record per il Papa più amato dalla gente. L'annuncio è stato dato stamattina dal portavoce del Vaticano, padre Federico Lombardi. Durante l'udienza concessa oggi al cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, Benedetto XVI ha dato l'autorizzazione per promulgare il decreto che certifica il miracolo attribuito a Wojtyła. Questo era l'ultimo atto dell'iter che porta alla beatificazione, un iter che per Giovanni Paolo II ha seguito tempi record. È stato avviato prima che fossero trascorsi 5 anni dalla morte, come prevede la legge, una deroga voluta dallo stesso Ratzinger. La beatificazione avverrà il 1 maggio, data decisa oggi da Benedetto XVI un po' a sorpresa. Fra i sostenitori della beatificazione c'era infatti chi si aspettava il 2 aprile, anniversario della morte di Giovanni Paolo II, e chi invece puntava al 16 ottobre, data della sua elezione a pontefice. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dal Papa, da Benedetto XVI, si è presentato questa mattina con la nuova giunta al completo il sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Appena in tempo per non andare da solo all'incontro con il Papa, il sindaco di Roma Gianni Alemanno, insieme alla sua fede, ha portato a Benedetto XVI anche i nuovi amministratori della giunta capitolina. Il sindaco ha rischiato il flop perché l'accordo è stato trovato in extremis dopo una lunghissima riunione notturna. Subito dopo, Alemanno, alquanto provato, ha firmato le ordinanze con le quali formalizzare la nuova giunta. Sono stati 5 giorni molto intensi. Questa giunta viene costruita mettendo 2 esterni molto qualificati rispetto al passato, immettendo forze nuove importanti dal Consiglio Comunale. Noi ci presentiamo una squadra molto rafforzata rispetto al passato, che sono convinto riuscirà a servire meglio e in maniera più seria e efficace gli interessi di questa città. Ecco le new entry al bilancio: c'è il tecnico Carmine Lamanda, ex dirigente della Banca d'Italia, poi Dino Gasperini alla Cultura, Marco Visconti all'Ambiente, Antonello Aurigemma e Gianluigi De Paolo, presidente delle ACLI Romane. In totale 5 novità. E 7 conferme. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo in Tunisia, l'avete sentito dei nostri titoli. Tunisia nel caos, sempre più violente le proteste per il caro pane e non solo. E allora torniamo da Alberto Negri. Alberto. Buongiorno a voi. Tunisi, nel cuore della capitale, sta respirando il brivido della libertà, ma non la libertà che ha concesso ieri con il suo discorso Ben Ali, una libertà ben diversa, la libertà del popolo, di un popolo che oggi chiede al Presidente, nonostante le concessioni che ha fatto, di andarsene, anzi di andarsene subito, lui e la sua famiglia, tutto il suo clan. Ecco, questa è la vera novità, la vera reazione che c'è stata dopo i tentativi di festeggiamento di ieri organizzati dal regime da parte della popolazione. Continuano ad affluire cortei nel centro di Tunisi, ma ora che cosa accadrà? Qui a questo punto anche l'opposizione è stata soppassata, dopo aver accolto molto bene il discorso di Ben Ali ieri, oggi dovrà fare i conti con una piazza che invece desidera che il Presidente, anzi lo chiede a gran voce, se ne vada. Grazie ad Alberto Negri. Naturalmente anche qui continueremo a seguire la situazione nel corso della giornata. L'alluvione in Brasile ora invece, perché il bilancio si aggrava, sono centinaia le vittime, 134.000 gli sfollati. Sono più di 500 le persone uccise dalle alluvioni e dalle frane dovute al maltempo che si è abbattuto sulla regione serrana di Rio de Janeiro. Le città più colpite sono Teresopolis, Nuova Friburgo, Sumidoro e Petrópolis. È considerata la maggior catastrofe del Brasil. Il più grave disastro naturale nella storia del paese, ripetono i media locali. La neopresidente Dilma Rousseff ha compiuto un sopralluogo nelle zone colpite, mentre il governo federale ha stanziato i primi fondi destinati alla ricostruzione dalla protezione civile. Ciò che ci preoccupa è quanto accadrà nelle prossime ore, ha detto però il governatore dello stato di Rio, Cabral, perché le previsioni meteorologiche non sono affatto rassicuranti. Una tragedia, ha commentato la presidente, che dimostra come i più poveri del paese siano costretti a vivere nelle zone più a rischio. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Restano gravi problemi, anche se il peggio sembra passato invece in Australia. Questa è la premier del Queensland, Anna Blicht, nel suo briefing di oggi sulla drammatica situazione causata anche qui dalle alluvioni che hanno colpito lo stato australiano. Sono più di 100.000 le persone ancora senza corrente elettrica e acqua potabile. Le autorità australiane hanno messo in guardia contro la possibile comparsa di malattia. Ad oggi 15 persone sono morte, altre 14 travolte da corsi d'acqua. Non se ne hanno più notizie, decine i dispersi. E torniamo in Italia con la cronaca. Tre medici sono stati condannati ed altri due sono stati assolti nel processo per la morte di Eva Ruscio. Ricorderete la sedicenne morta nel dicembre del 2007 nel corso di un intervento chirurgico all'ospedale di Vibo Valentia. Il giudice ha condannato ad un anno di reclusione il primario del reparto di otorinolaringoiatria. La Procura di Roma ha chiesto invece il rinvio a giudizio per abuso d'ufficio dell'ex PM Luigi De Magistris, oggi europarlamentare d'Italia dei Valori, per aver acquisito i tabulati di alcuni parlamentari senza averne richiesto autorizzazione preventiva alla Camera. La vicenda riguarda l'inchiesta Why Not. Dal 21 gennaio sarà al cinema Vallanzasca, Gli angeli del male, il film di Michele Placido sul bandito della Comasina condannato a 4 ergastoli e 260 anni di galera per omicidi, sequestri, rapine. Oggi Vallanzasca lavora al di fuori del carcere, dove torna la sera, e alla vigilia dell'uscita del film Raffaella Calandra lo ha incontrato. Forse perché sono un perfezionista avrebbe potuto essere qualcosa di meglio. È sicuramente un bel film, avrebbe potuto essere un capolavoro. Non mi sembra che desse il senso esatto di quello che sono. Dicevo Michele, leggendo la sceneggiatura, mi sembra di essere una persona non del tutto equilibrata, per non dire un matto scatenato. Non va a letto la sera se non ha fatto qualche disastro, e non si alza la mattina se non ha almeno scopato tre donne. E questo non sono io. Cioè, da 1 a 100 lei quanto si è riconosciuto in quel Renato? Chiaro, se tu è stato un grande, ma mi ha interpretato quello che lui ha conosciuto, cioè un uomo di 60. Io quando andavo in giro a fare i disastri non ne avevo ancora 30. Hanno fatto sentire la loro voce i familiari delle vittime della banda della Comasina contro questo film. Cosa risponde? È facile, tra virgolette, dire è male. In Francia Sring ha fatto un disastro, ha fatto il triplo degli omicidi che sarebbero attribuiti a me. Tutta questa polemica non c'è stata. Io mi sono fatto 40 anni di galera. In Europa non c'è nessuno che si è fatto la galera che ho fatto io. E credimi, c'è qualcuno che ne ha combinata qualcuna, non dico tante, ma qualcuna peggio delle mie. L'intervista integrale a Renato Vallanzasca la sentirete domani in Storiacce alle 13:15. A 150 anni dall'unità, che cosa rappresenta oggi il Sud per l'Italia? È una delle domande che ispira un nuovo mensile intitolato Il Sud, in edicola da oggi ogni primo venerdì del mese. Un'ambiziosa iniziativa nata in Sicilia per volontà dell'editore multimediale Gruppo Editoriale Sud, Adriana Fracchia, ha intervistato Salvatore Carruba, che è direttore editoriale. Questo mensile ha l'obiettivo di ricominciare a parlare del mezzogiorno, cercando di superare il dibattito un po' imbarbarito che si è sviluppato negli ultimi anni tra spinte separatiste, secessioniste a nord e a sud e reciproci disconoscimenti. Io credo, da vecchio liberal risorgimentale cavurriano, che il mezzogiorno sia una risorsa importante per tutto il paese, soprattutto per un paese che vuole svilupparsi e che affida le proprie prospettive per l'economia proprio allo sviluppo, e non ci si può sviluppare a metà. Il Sud deve ritornare o diventare una fonte di ricchezza per tutti. In fondo, in tutti i paesi europei i ritardi fra le aree più difficili e quelle più ricche si vanno riducendo, in Italia vanno aumentando. Quindi questo mensile vuole riportare il tema del meridionalismo, del mezzogiorno, al centro del dibattito politico, economico e sociale. In questo primo numero parliamo soprattutto di federalismo, che può essere essere una ricetta positiva se naturalmente diventerà un'occasione di responsabilità per le classi dirigenti, tanto nel nord quanto nel sud. Abbiamo ancora il tempo per un'ultima notizia appena battuta dalle agenzie: via libera al parco eolico di Porto Scuso nell'area del Sulcis Iglesiente in Sardegna. L'annuncio poco fa di Enel Green Power, che ha ottenuto l'ok dalla regione Sardegna, diventerà il più grande impianto eolico italiano per le rinnovabili. Il regime sarà in grado di produrre 185 milioni di kilowatt ora all'anno, pari al consumo di 70.000 famiglie. Era l'ultima notizia per questa edizione di GR24, in regia Filippo Aureggi. Vi lascio come sempre con Italia in controluce. GR24 torna invece alle 14. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.